È la prima e la più importante mostra mercato italiana di arte moderna e contemporanea, la più longeva e quella che vende di più. La manifestazione, che fino a lunedì 26 gennaio animerà la città, è il luogo privilegiato per le conferme del mercato e le anticipazioni di ciò che avverrà nel mondo dell'arte. Eventi di gelo portati dalla congiuntura economica mondiale non hanno scoraggiato gli oltre 200 galleristi giunti qui ad Arte Fiera e pronti a scommettere su questo appuntamento bolognese con opere di 2000 artisti, tra cui anche Fontana, Morandi, Warhol, Melotti, Miró e Kate Haring, solo per fare qualche nome. E poi ci sono i convegni, momenti di confronto, un programma di incontri dedicati agli sviluppi del collezionismo d'arte e accanto alla manifestazione un calendario di eventi che include film, musica e performance. E poi c'è la grande Art White Night, la notte bianca prevista domani sera con aperture di musei, gallerie, con spettacoli e concerti che animeranno le vie della città per 4 giorni vetrina dell'arte internazionale. Michela Daghini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.